Non ti sentono, chi è? Abati, chi è? Prova radio? Si è mangiato appena appena di radio, però va bene. Su lo scala sono? Su quasi a toccare il 3 del 36 a tu. Aspetta, ce n'è una sincopa questa radio, va. Però nello filo più fine io li voglio buonini. Una macettina li voglio buonini. Non dovrebbe dare problemi, ma cosa ti basta faccia in faccia. Però, vedo io. Aspetta tu, aspetta un secondo. Che capa? Aspetta che questa radio sta... Sarando io, vediamo tu. Non ho capito niente di quello che mi hai detto. Capa, non l'hai accesa, Nurai. C'è da me che non l'accendi, già lo grido sta canta strana. Deve scaldare di nuovo. Era mesi spenta, via. Che vedere, che vedere. Quello già lo sai di chi era quello lì. Ciao Antonio. Buonasera, buonasera, chi è? Babbo Natale. Poi, allora, buonasera. Ehi, Ami. Adesso, fra un po' faccio il cambio di antenna, Ami. Sei in compagnia di Daniele, sì. Buongiorno, salutoni. Che coso è? Massimiliano, secondo me. Già l'ho sentito. Però hai parito, Massimiliano. Io ti vedo in bocca, brutto, mancano bizzo. Non è che da cucavi. Buongiorno, Cla. Buongiorno, buongiorno. Aspetta che spegniamo l'elicottero, parcheggiamo, sennò ti assorda. Io non mi assorda a me, no. Già sono qua io, continuate, continuate. Dopo lunga, penosa, assenza, mi sono deciso di riaccendere tutto. Sì, hai fatto bene, ma nella tua assenza non ti hai perso niente. Perfetto, vai, sto facendo cosa. Ciao Antonio. Sì, ciao Cla, io no che gioco sperimentando, dimmi. Sperimenta, sperimenta, oggi arrivi alla luna. Ti fa poco, va bene. Riprendendoci, Cla, piano piano. E niente. Vabbè, la vita continua, non ti preoccupare. Ok, dai, un abbraccio grande anche a mamma. Ci sentiamo dopo, sto facendo cosa. Riprendi a tu, con il gatto ci sperimentendi. Mica c'è qualcuno che sta chiamando sotto. Io ti sento, ma sei in mezzo al QRM, però c'ho un sacco di propagazione, cioè dimmi chi è. Ciao, bro. Sì, ma arrivi, arrivi, non c'è problema, arrivi benissimo, è che c'è un po' di propagazione e si sente un po' di casino sotto, bro. Ciao, bro. A dopo, a dopo. Avanti, ancora, oggi sperimentelli da giudizio. Che capa, mi so che mi attende la carringo, e questa ho scoperto una cosa, ho scoperto. Hai scoperto una cosa, hai scoperto, e cosa hai scoperto? Ma Fagginini varia, mi sei staccato, c'è presente dove c'è la vite lì, gli hanno messo un rivetto e si è staccato, va in ora mara. Vabbè, metto a posto, vedi, una vale l'altra di quelle antenne da giudizio, si esempio Mattanene di Rugabo, ma una vale l'altra, sono sempre la stessa storia, non è che per un rivetto l'antenna non esce. Va bene, vai, ti lascio in compagnia di Daniele, sto facendo cosa. Ciao Daniele, ci sentiamo dopo. Cappa di Ros, metro Claudia, dai. Buon proseguimento e saluto al QRA familiare, dai. Riprendi, Antu. Cappa, vai. Sai che metto l'altro apparecchio che mi mai che gira intorno alle balle. Facci. Chi è che voleva entrare prima, avanti. Ma è da più 10, Daniele. Prova, Antu. Vongoli. Ma sei sceso in segnale, sei novio adesso, cosa hai fatto? Sono dentro casa. Ah, però l'altro aveva la radio migliore. Però si può assomigliare, quando è a posto no, sopra. Dimmi altro che c'era il piccolino che mi stava parlando. Detto che non si può assomigliare quando è a posto o no, la segna. Cava. Già va bene adesso, tu. Questa è buona. Però cantore devi fare collineare attaccato, non collineare attaccato, no. Ah, ma stai a fare a casa, mi copia già tutto i nomi. Sì, ma le prove le stai facendo collineare attaccato o collineare attaccato? Che cosa che faccio la penna tra in tu casa, va via. A casa, ma fuori il capo, sì. L'ho provata così, cazzo, un'E5 stazionaria dentro casa. Adesso che antenna stai usando? Quella che è sul tetto? Adesso sì. Va bene, come il segnale è sempre uguale, non ha cambiato niente. Non so cos'è che vuoi fare, ma vabbè. Vedremo se cambia qualcosa. Aspetta, lo faccio vedere, guarda. Lo vedi cosa stavo facendo? E lei è sul tetto, l'altra. Vaffanculo, pure la portata a bestia ce l'ha stato. Ma io non ho mica nulla, il segnale è sempre fermo, 9 più 10. Una cosa, ti ha già mandato un video. Ah, non ho visto niente ancora, ce l'ho una giubbotta del telefono. Va bene, dai, riprendi Daniele. Cappa di Rosmetro, adesso facciamo girare un po' di radio qua, vedo cosa succede. Che è morto, che è vivo, boh. E se non fai come ho fatto io, ne muovi tutto e fai prima. Già l'ho fatto una volta, cla. Io un'altra parte lunedì ho portato la Rucca, che se ne sta occupando lui, adesso quattro venduti. Guardo tutto, Daniele, non ho più voglia di fare niente. Ho tenuto 2HF, VU e Buccio, vabbè, la radio vintage e basta. Giusto a farti due chiacchiere qua il 27, dai già, qualcosina poi, l'altro a fare qualcosa di attività. Gava gava! Infatti si conferma, come dice quello. Va bene, dai, mi guardo questo video di Antonio, vedo già cose convenienti. Riprendi Antonio, riprendi, già sono qua io comunque, se volete. Se non mi chiamate già non riprendo, ora poi rispondo ad Antonio. Ehi, a Claudia, già siamo qua noi. Bamboli! Ah, faccio un esperimento, gatto! Ci metto un pezzo di tubo! E proprio, vabbè, come esce? Al volo! Prova, prova, che io sto piazzando la pista a mio figlio, aspetta! Ma vai, Davide! Oh, sei sceso di segnale, a tu! Vabbè, ma ce l'ho con la mano! Oh, era meglio prima, 6-9! Sei da preso meglio, la bagazza di Rovento! Sei aumentato 9-5, 9-10, sì! Fai una cosa, fissala bene e poi fai la prova, no? Ma paracco, cazzo, metti il cazzo con una mano, ti rendi la pelle, l'altro un gordo! Da palo ti stai facendo, cazzo! Sei da va! Aspetta, dove sono al telefono? Mi si è abbacciata, 9 più 5. Caffa, tu potresti con una mano, una mappa che mi viene sbaglia. Metti la fissa e poi ti dico se va meglio dell'altra. Per il momento sei 5 punti più basso, anche di più. Un po' bravo a cazzo, Adesso sei Santiago 9. Ma cazzo di cane, aspetta che è troppo. Un attimino. Ma di un bisogno di renne, quella là andava bene perché non era lasciata quella, si rivettava di nuovo. Ma sai, si è sceso anche il stazionario. Si è sceso il stazionario e è sceso anche il segnale, boh. Fissata, dai. Ma Raura? Prova. Fissata, dai. Ho fissata. Fuglioro di troia. Si è abbassato quasi di 10, sì, quasi Santiago Onofre, ma di un peso esageramente. Perché non c'è ufficio, capito? Oh, maledizione, che c'è sta cambia. Chi è? Qua si è abbassato quasi di 10, Daniele, non so da te. Io ho visto lo Smith, mi sa che è 9-10, prova tu. Ma stavo provando così, ce l'ho esplicita, dai. Anche qua è 9-10, qua. Da 9-20 ci è passato a 9-10, ne manco. Ah, così già va meglio, va. Questa qual è l'altra? Ma io stai rodinendo un pezzo di baro, alla cazzo e miele, le rodinende. Ah, certo, è questa, l'altra già va bene, ma lo sai di giambà, lascia questa. Ma la resta con il nastro isolante sul tetto, adesso già. Adesso la stavo io, questa qui la stavo provando un pochino per vedere. A vedere come te. Un po'. Cazzo, depigliato. Bianco un secondo, arrivo subito. Io sono qua, vai, sto facendo io, giusto per rispondere a Antonio, prima lasciarlo così. No, c'è quella, Antonio, l'altra, poi non hai tempo di mettersi a fare antenne, no, col vento non la puoi tarare bene, è un casino, lascia quella lì, poi a tempo bello si vedrà di mettere un'antenna come Cristiani. Non volevo fare una cosa, la volevo tarare così, la volevo tarare, poi dopo, come si dice, da che era tarata, la piazzavo direttamente, capito? Non la puoi tarare dentro casa, Antonio, non si tarano le antenne dentro casa, le antenne si tarano fuori a una certa altezza, la tari provando, una volta che tarata allora la tiri su, ma non ci deve essere il vento per fare questi lavori, perché se c'è il vento ti sforza la taratura, capito? Cazzo è, sta splatterando. Cosa? Qualcuno che sta splatterando. Io non ricevo splatter, Antonio, cazzo, ma voto il radio splatter, non ho splatter io, e poi sono distante da te, magari c'è qualcuno alla peloce, non lo so. È più che possibile. Non lo faccio. No, quando ho 4.30 io non sento niente, Antonio, splatter. Non tengo Roberto, però di gente tengo niente da voi. Non so chi è. Pagare. Avanti da poco e poi questa, però questa è migliore, la verità ti dico, dico la verità, questa è migliore come antenna, è più di tipo vecchio, capito? Ho capito, Antonio, ma se va bene lascia quella, poi quando hai le possibilità ti metti un'antenna come Cristiani, un po' superiore a quella lì, però non ti puoi lamentare, te l'ho già spiegato, per la posizione in cui ti trovi, per come hai messo l'antenna, cosa vuoi, ti ascoltano tutti, ma cosa di una futti, non è che puoi fare miracoli, te l'ho già spiegato, ma tu non mi comprendi, ma ha cercato tu sì. Funzionando, l'ho inastrata stamattina, ho salito nel tetto, l'ho inastrata. Allora, non va bene, cosa vuoi di più? Se tu consideri che di tutti quelli che muovono dalla terroce, tranne Luca Flipper, no? C'è quello che arriva più forte, cosa vuoi? Va a segnare di Gianni Doppio Rume quando è liscio, di cosa devi veramente tanto? Non lo so cosa siete che devi fare. Ci vuole pazienza. Eh, vabbè, da sa cazzo mi hanno mandato, ma cazzo. Ma la 25 con 3. Ma che sei qua davvero, eh? Non so guarda con i buoni, no. Poi esci che la smonto, va, la smonto e poi questa però è migliore come struttura, è strutturata bene. Vabbè, adesso la smonto la metto da una parte. E fallo guru guru che ti guadagni il pane, guglione. Hola. Attenzione, mon ami, c'è qui te lì della Sardegna che ti fa pelle. Ora, attenzione, mon ami, c'è qui te lì della Sardegna che ti fa pelle. Sarà bruciato qualche finale, no? Guarda questo. Ecco, Romeo Reserve. Sì, già, sì, stavo vedendo delle cose, ciao, buongiorno. Mi stavo accingendo a andare a preparare il fuoco per cucinare la carne. Buongiorno, e anch'io devo fare una caponata dopo, ma non a Giovanna, è la verità. Mi hanno fatto roba di... Bah, un po' di roba da campagna e non so manco di bulimia. No, io invece devo fare carne arrosto, la signora arrosto mi cudere. Cavolo, fagioli, fagiolini, melanzane, peperoni, indivia, già me l'ha navigato buca di cose. Guarda questo, già, sto uscendo. La mangio, ma questa roba qua poi la fresci, qua se fagioli adesso mi sbuccio e me ne metto in freezer. Quando devo fare minestrone, faccio minestra con i fagioli. Fagiolini, me li pulisco, pulisco, così almeno non si guasta. No, io anche i fagiolini li lavo bene, li asciugo poi con un panno da cucina pulito, li taglio a pezzettini e li metto da parte nel freezer per quando faccio il minestrone. Che sono bambino, lo senti? Lo sento, sì, è 9. Attenzione alla France, attenzione alla France. Sì, magari sembra bambino, magari c'ha la voce da bambino. Hola. Attenzione, attenzione, mon ami, c'est que de la Sardegna qui ti fa peur. Ici, la station Delta Romeo de la ville de Sassari. Attenzione, mon ami, c'est que de la Sardegna. Niente da fare, avanti chi vuole entrare. Chi me... A posto, No, già. Anche l'altro fa lo stesso difetto, boh, non so da li ha preso. Perché ne hai due? C'ho due 48. Tutti e due sono con lo stesso difetto. Ma io poi guardo gli spezzoni. Ma non è possibile, l'altra volta stavo facendo io, c'era lo spezzone in corte, è fatto da me, BPL, tutto quanto ha fatto bene, solo che c'era con degli anni, si è formata questa pattina all'interno del PL, non capisco come, e niente, e praticamente mi facevo uscire a fischi. Cava, qua non lo so, da sia già. Vabbè, adesso non ne ho voglia. Oggi a riposo sei da niente. E io sono 4 mesi a riposo. Come mai? No, ci sono più di là. No? No. Cappagata, anche tua moglie. E allora? Vabbè. Molto papà che ne va di un altro. Ah, quello è poco ma sicuro. Bimbo, crescendo sta. Era bimbo, adesso ha già 7 anni. Passo il tempo. Io l'ho visto io un attoneonato, te lo ricordi a Trattamona, che poi erano venuti i carabinieri. Eia, mia, lo sente, sta parlando. Già lo sento, sì, sotto fondo. Già lo sento, che fa 7 anni. A febbraio ne fa 8, già, è secondaria elementare. Già va bene. E qui adesso se senza lavoro tu e lì, tutti e due. E allora? Vabbè, già, adesso già riesco ad arrangiarmi, no? E qualcosa già riusciamo a tirarla fuori. Certo. No, non è quello il problema. Il problema è essere attivi. Uno quando non lavora è brutto, dai. Cappa, tu, avanti. Sì, ciao, l'amico, non lo so chi è, non ho capito. Comunque, ben ascoltato. Daniele. Ah, ciao Daniele, sì, ben ascoltato anche a te. Buongiorno Antonio, buongiorno. Bene, dai, già, io mi accingo a scendere giù, a accendere il fuoco, che la legna deve consumare. Anch'io l'ho fatto il caronata, ragazzi, la caponata, la caponata, la zana e peperone. Me le faccio alla braccia le melanzane, che loro le mangiano volentieri, io no, io sono più per la carne. Sono buone. Basta fare gli spacchi a quadrettini, già lo sai come si fa. Poi prezziamo un aglio, olio, e un po' di peperoncino se ce lo vuoi mettere. Lo so già, io le faccio sempre così, tutte le volte che faccio carne arrosto faccio peperoncino, faccio melanzane, però lo sai cos'è, che se ne mangio un pezzo la digerisco fra 6 giorni. Ma se non le digerisci, no, io digerisco anche i peperoni di notte, la verità, come digestione già sono abbastanza buono. Certe pastiglie mi fanno male, mi fanno bruciore e non le posso prendere, però tutto il resto lo digerisco tranquillamente. Vabbè, altro dai, buona pizzata ciao, buon proseguimento di giornata a te, a Daniele e a tutti quelli che sono in ascolto, in agguato. Fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, a Titanino, fuoco. C'è anche un bel po' di vento, oggi mangerò anche il fumo. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ah, ciao. Sì, c'è un po' di vento, è vero, me lo dici, mangiaci. Avanti, Daniele. Ciao, Aldo, buona rossita, buon proseguimento. Grazie Daniele, buona giornata anche a te. Cava cava. E allora Gianni, tu la stai combinando? Io sono fermo, sono praticamente in pensione. Cava cava, già va bene, già va bene. Lo so, ma poi alla fine ti annoi, il primo periodo è bello, poi alla fine ti annoi, non sei più cosa va. Ascolta, come segnale, come sta arrivando da te? Sei quasi 9.30 già. Va bene, già va bene. Ultima radio, ultimo tutto. E io invece, guarda che ho la suffetta sotto e qua c'è freddo. Aspetta, il guarda. Vai. Guarda un po', 1, 2, 3, la Peppina fa il caffè. Anche tu sei quasi 9.30. Cava, cava. E qualcosina di attaccato sotto, dai. Quanti? Più di 100, là. Allora già va bene, Già va bene, io sto scendo col magno. Col magno. Il magno è un po' per voi. Già va bene. Guarda, così c'ho 2 watt. Adesso franciare, fa vedere. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. 2 watt tondi tondi. Sei 9 qualcosa con 2 watt. Poi quando attacchi sei 9, quasi 9 e 30, dai. Manca un pinino 9 e 30. Già va bene. Anche troppo c'è, cioè, mi interessa più che altro per il 45. Poi siamo distanti, noi non è che siamo a 2 passi, no? Siamo dall'altra parte della città. Appunto. Quindi il segnale è buonissimo, non buono. K di Rosmetro. Già va bene, già va bene. Dopo se io voglio mi appunto a stare in questa radio, che sincope li ha preso. Meglio. Io me lo volevo piazzare in macchina, dai. Lo so già, però boh, anche io mi stavo pensando, cioè io ce l'ho sempre, non è che, a riattaccarlo, a metterlo. Io ho la base magnetica con la Turbo 2001, buco non gliene faccio perché la macchina è nuova, però mi metto fisso l'apparecchio, che se c'è l'estraibile, è solo che devo buscare due viti piatte, perché toccano le viti dalla slitta non va. Io ce l'ho la 48 modificato, quello lì pompa voci. Ehi, già me lo ricordo. Questo qui non è francese. Lo sai già. Portoghese. Cara, sembrava francese, io già sta arrivando anche forte. Attenzione, attenzione, buon amici, qui per l'isola della Sardegna. Oh, pensi che ci sia propagazione per lui e per loro, non sento nulla. Bisogna vedere anche, tanti fatturi, sì. Cava di Rosmetro. Cazzo, aspetta, quell'alimentatore, Maria, che ci fosse... L'elicottero acceso, davvero, puliti voi, ma io l'altra volta li ho smontati, tutti con l'aria li ho puliti, che sei uscito un po' di più dalla vetta. E poi ne ho messo un po' di spiazzare contatto, e basta, tutto lì, e poi è diventata meno rumorosa, non dico del tutto, ma meno rumorosa. Io ho quelli cinesi già, quelli switch in cinesi. Ce l'ho qua in terra, ma fa un casino nero. Devo trovare la posizione giusta. Come sempre. E cosa già? Trovare la posizione giusta. Ce n'è un casino. Oioioioia. Ma Bombolino che fine ha fatto? Sta facendo le prove tecniche. Bombolino, non lo so, io ho chiamato, non mi hanno risposto, allora non ho insistito. Quindi adesso ti sei salvato dal Covid. Lasciamo perdere. Già ne ho fatto sino alla prima ondata, va, passa. Stop, finito, no. Non sono più condizioni di... Le condizioni per fare questo tipo di servizio, è troppo. È rischioso, ci sono... A parte che è stressante, perché faccio stare ore e ore lì con l'ambulanza in fila, ti viene il latte, dove sei tu? Non so, io quel servizio dell'ambulanza l'ho fatto per 17 anni e per fortuna non è mai successa una pandemia così grossa, però ho fatto i miei servizi anch'io, non faccio per tempo a scaricare il malato che mi chiamavano per andare a prendere un altro, quindi già non so cosa vuol dire stressante, sembra così ma è stressante. Poi adesso ci sono questi guasti che perseguitano le ambulanze, picchiano i volontari, non so, non se ne è mai viste queste cose. Lo so già lo so, ma adesso è troppo rischioso, troppo, o alzi la posta in palio, oppure arrangiati. Infatti, ho visto che a Ciso ci sono le ambulanze ferme, che non le stanno usando, con tutte le ambulanze che servono, sono fermi, e per dire che noi eravamo i primi a fare 118, siamo stati i primi, per cui abbiamo fatto servizi di tutti i generi, però adesso non sta più andando, quando è morto il presidente, il vicepresidente, non sta più andando il Ciso. Già, però adesso per dire come facevo prima io quel servizio lì c'è un appalto e una società nella società in poche parole, capito? Vedi tanti nomi ma è un'unica società alla fine. Ho capito. E come è successo da noi al lavoro, l'hanno dato in mano a una ditta che teneva il personale, poi si è verificato che questo che ci teneva era un delinquente, era l'Andrangheta e non pagava le tasse, l'ha perseguitato perché non pagava le tasse e hanno scoperto che era l'Andrangheta. Come sempre tutte le magagne. Vabbè già, io adesso mollo, stacco un po' e ci sentiamo dopo se coincide, dai, che non resta al piccolino. Ehi dai, vai. Goditelo sin quando è piccolo, poi crescono e volano. D'accordo Daniele, dagli un bacione da parte mia, saluta anche a tua moglie, ciao. Campa lì, contraccambio e salutoni. Buon proseguimento, dai, già, sentiamo più tardi se coincide, dai, sono alle prossime. E saluto e cerco anche gli eventuali ascoltoni. Ciao. Ciao Daniele. Chi è che ha detto ciao? C'è qualcuno che mi sente, cazzo? Andiamo, ciao. Come arrivo? Aspetta. Minchia, sono riuscito a tararla bene. Che vuoi? Gianlu, come mi senti? Una bomboletta, figa. 9:20 sei quasi. Aspetta che sto stringendo tutto. Risalgo sul tetto. L'altra la smonto, ma cagato lo gatto. Così dico, via. Che bello, senti qua, vita mia, che bello. Oi, sto godendo. Care, che fai, Noghi? Cazzo, non si muove manco lo Smith stazionario a 1-1. Ho indovinato io, ho fatto la lotta io. E ho fatto tutto io. Andava. Vola. Thank you.